analizzare appunto la materia con l'antimateria, cioè parliamo di antimateria, visto che l'antimateria secondo me è più intelligente della materia, no? Bisognerebbe votare l'antimateria. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Tu pure sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci son volpi di quelli stofanti di la mille topi, tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno. Con tanti galli che cantano, troppe galline rispondono. Ma dovessero condannarli, cosa succede? No, non sono solito esercitare la mia mente su fatti che ritengo non probabili. E se domani pure tu, ragazzo mio, vedi un'aquila lassù, tu vai con le gambe che hai in un posto che sai dove lei non può arrivare. Ma... E l'unico problema è, dice, ma come fai? Fumi tanto, figurati le cose. Non mangi, non bevi, poi voi siete tutti un po' frosi, un po' drogati, ma come fai a stare così? Intanto me lo dicono quelli che mi vedono per strada, perché quando mi vedono in televisione si dice, ma al naturale è un poco meglio. E se i piccioni spariscono, co-co-co-co-co. Tutte le papere piangono. Però lavoriamo per ricostruire un'alleanza costruttiva fra quelle forze politiche che hanno un'idea condivisa di cosa volere fare di questo paese. Concludo, è meglio una moglie col mattarello in casa che una amante da buca a buca, amico mio. Il gallo che canta non ci casca mai. Tu l'hai capita questa cosa di Pietro, scusa, meglio una moglie col mattarello in casa sarebbe un alleato che ti dà le bastonate, no? Giusto, Parenzo? Beh, una grandissima metafora, sì, sostanzialmente meglio avere una cerbera in casa che un cesto di lumache con un sacco di corna in testa, mi pare di aver capito così. No, l'amante da Bunga Bunga sarà Berlusconi probabilmente, è rivolto al Partito Democratico, capito? Meglio una moglie... È rivolto al PD, ma dice meglio avere una moglie rompicoglioni con il mattarello... Sì... piuttosto che un amante da Bunga Bunga, no? Quindi... Sì, sarà così, sarà così. Senti, è tornato Mandarà, eh? Mandarà no, ma perché non si può aprire una trasmissione così della Confindustria con Mandarà. Mandarà è sempre il solito che fa i film durante i comizi di Grillo, se ne voleva andare se dall'Italia. Se la sua unica occupazione, se ne vive di questo. No, se ne voleva andare, no, avrà anche un lavoro, se ne voleva andare dall'Italia, ha annunciato che questo è un paese di merda, prima della sentenza della Cassazione, poi ha detto anche che l'Italia è un paese di mafiosi, eccetera, eccetera, non voleva stare qui. Poi per una questione così, perché i figli forse si sarebbero trovati male, è tornato indietro. Vabbè, siamo tutti contenti. Adesso senti, Ustica, fa una cosa tremenda. Tutto quello che è successo in Italia, a cominciare dalle varie stragi di Stato, compresa la strage di Ustica, compreso la strage di Falcone e Borsellino, tutto questo sicuramente ha dei legami col fatto che siamo una colonia americana. Non andare finché il gallo canta, il gallo che canta non ci casca mai. Ha già fatto le sentenze, Mandarà, Ustica, Falcone, Borsellino, perché siamo una colonia americana. Senti quest'altro. Senti quest'altro. Agli amici della CIA. Appello agli amici della CIA che operano in Italia. Fate subito una extraordinary rendition. Portateli da qualche parte, ovunque nel mondo, il signor Mandarà. Subito, amici della CIA, subito. È stato a loro concesso di gozzovigliare, di stuprare il nostro Stato, a patto che si permettesse appunto ai poteri forti di fare quello che ha fatto. Sono le stesse che poi pungeranno te. Beh, ma lasciamo perdere il signor Mandarà, il grillino Mandarà. e andiamo a planare naturalmente sopra l'attualità politica, caro Parenzo, soprattutto quest'idea del Partito Democratico di trasformare la legge sulla com'è, la legge sulla ineleggibilità di Berlusconi, ineleggibilità. Sì, su una con un'altra legge, in modo che il Cavaliere abbia un anno di tempo per scegliere in incompatibilità, una cosa complessissima, una cosa di una complessità pazzesca, una cosa. Ma che stai facendo là che si sente rumore? No, in realtà sono, mi trovo negli studi di ho capito, ma si sente rumore sottofondo, cioè sento... è la televisione, questa grande scatola magica che entra, ma si sente rumore, non si capisce niente quando parli. Va bene, allora mi chiudo nel bagno della sette. No, richiuditi un attimo nel bagno, dai, chiudi nel bagno. Secondo Gasparri le dimissioni sono un'arma gandiana. Chi l'ha detto questo? Gasparri, un'arma gandiana. Vabbè. Troppe galline rispondono. La nostra arma gandiana è dire: noi ci dimettiamo. Un gesto, come dire, di protesta civile. Gasparri, uno si dimette. Sì, perché uno si dimette e rinuncia al proprio mandato. Le dimissioni dei parlamentari, un'arma gandiana, secondo Gasparri. Hai detto bene. Oh, insiste questo qua del grillino, già russo, quello siciliano col barbone. Berlusconi, secondo lui, è abusivo. Senti. Abusivo. Secondo noi è abusivo Berlusconi in Parlamento, dal 94. E perché? Non è solo secondo noi, ma anche secondo le risultanze della sentenza Mediaset. Giarrusso. E si riparla pure di un governo PD 5 Stelle, Si parla ancora di un governo di questo tipo. 800 24 00 24, è con noi il professor Massimo Cacciari. Buonasera. Meno male. Buonasera. Come sta? Come sta, professore? Bene. Senta, ma lei, secondo lei è possibile o sarebbe una disgrazia ulteriore un governo PD 5 Stelle, di cui si vocifera in queste ore come possibile soluzione, chissà, tra qualche mese, se il governo cade? Che dice lei? Una tragedia sarebbe? Io penso di sì, ma non per disistima nei confronti particolari, nei confronti delle 5 Stelle, ma perché sarebbe una tragedia la caduta ora del governo Letta. Una crisi di governo ora, sì. Con mesi di fatiganti trattative, sarebbe sì che il prossimo settembre-ottobre noi non collochiamo più i titoli di Stato e quindi andiamo in bancarotta. Molto semplice, questa è la situazione, certo. Che tutti se ne rendano conto e diventino, se è possibile, persone serie. Ma chi è il meno serio di tutti, secondo te, in questo? Ma sai, è difficile fare una graduatoria, perché ormai la classe politica e non solo hanno dato prove di sé tali, sì, che è davvero difficile fare la graduatoria del più serio e del meno serio. Per esempio, serio. Il PD in queste ore ci sono documenti, controdocumenti, gente che si dà dello sciacallo, della merda. Ma è una cosa pazzesca, ma la gente PD, non capisce PD niente. Ma il sottoscritto, poverino, è un anno e mezzo che dice che cerca di leggere la situazione del PD in modo razionale. Il PD è una situazione, all'interno del PD vivono componenti incompatibili, questa è la situazione, culturalmente, strategicamente, direi antropologicamente, e prima se ne rendono conto meglio è. Non c'è niente di male a non poter fare un partito insieme si può fare anche un governo, ci sono stati governi di grandi coalizioni con partiti che hanno la propria incompatibilità, cioè non è inutile tentare disperatamente questo accanimento terapeutico per tenere in vita un partito che, ahimè, purtroppo, è morto. Dico io per primo, no, è morto, non è mai nato. Parenzo, che c'è? Ma effettivamente il professore ha ragione, il problema è capire adesso anche sto Renzi, no? È un po' un sortentenna questo Renzi. C'ha ragione Parenzo, però dice che vuol fare il sindaco di Firenze, però forse non si candida, però vuole riformare il PD. Cosa dice il professore? La segreteria, c'è la sua corrente in Parlamento e dice no, ma il problema è molto semplice. Renzi vorrebbe, è chiarissimo, vorrebbe una candidatura a premier senza passare attraverso la segreteria, la leadership. È una cosa che non si dà: o lui riesce ad avere il partito, quindi a vincere all'interno del partito, oppure chiaramente, anche nel caso venisse candidato per ragioni di forza maggiore alla presidenza del Consiglio, saremmo in una situazione di totale diarchia, cioè con un presidente del Consiglio che non è il capo del partito. Vabbè. Che di fatto l'ha nominato, l'ha indicato come candidato premier. Quindi una situazione che aggraverebbe la ingovernabilità complessiva di questo paese. Quindi capisce, non ha senso la posizione di Renzi, deve fare una battaglia per diventare capo del partito, dopodiché automaticamente sarà anche candidato alla presidenza. Senta, del Consiglio. Ma per arrivare un po' per ritrovare un po' di calma, che poi noi però in realtà Parenzo non piace, perché ci piace soprattutto il casino, non bisogna trovare una soluzione per salvare un po' Berlusconi, cioè, oppure secondo lei ormai è impossibile? Che ne so, la grazia di Napolitano, una nomina a senatore a vita potrebbe tranquillizzare le cose, oppure no? Berlusconi io ritengo che politicamente ormai non costituisca più un vero problema. Il problema non è, se vogliamo cercare di fare un ragionamento, Berlusconi. Il problema è che senza Berlusconi non c'è centrodestra italiano. Questo è il dramma. Sì, d'accordo, ma adesso se lo condannano all'inizio di agosto, che succede? Un casino? Quello è il punto. Succede un casino per forza, ma non è un casino perché Berlusconi perseguitato, eccetera. Questo non lo pensa più nessuno, neanche all'interno del centrodestra. Il problema è che non c'è centrodestra, e tutti gli equilibri politici democratici in Europa e non solo si reggono su una dialettica tra una forza, diciamo così, di centrodestra e una forza di centrosinistra. Qui in Italia questo è il dramma, capite, italiano. No, il centrodestra è spappolato, è solo Berlusconi nella situazione in cui si trova Berlusconi, e il centrosinistra è il Partito Democratico nella situazione che prima dicevamo. Questo è il dramma della democrazia italiana. Che dobbiamo fare? Il sistema dei partiti. E ci dobbiamo ammazzare. Sai che lei la mette nera, cioè è una tragedia totale quella che sta dipingendo lei. No, una roba drammatica. Non è detto, perché io ritengo che se riusciamo a superare quest'anno, se la situazione politica tedesca della Germania dopo le elezioni, come dire, apre degli spiragli per politiche economiche più espansive, meno austere, tra virgolette, eccetera, eccetera. Questo governo può reggere. Il governo Letta può continuare e realizzare quel minimo che concretamente potrebbe realizzare, ma che è importante realizzi. Io penso che con il prossimo anno qualche prospettiva anche di riassetto delle forze politiche, oltre che qualche prospettiva economico-occupazionale migliore, possa... Senta Cacciari, ma che finale... che finale si immagina? Una tragedia del collasso ora. Sì, che finale si immagina per il signor Caimano? Cioè, quale finale proprio drammatico, magari? Un finale con una fuga? Potrebbe essere anche un finale drammatico, potrebbe essere anche un finale alla Craxi, potrebbe essere anche quello. Ma ricordiamoci poi come il collasso giudiziario di forze politiche 20 anni fa ha provocato poi il ventennio successivo, il disastro totale del ventennio successivo. C'è la fuga. Quando delle classi politiche vanno a casa per via giudiziaria e non per via politica, succedono disastri, hai capito? Non è che te ne liberi. Quindi bisogna sapere che il superamento di una situazione politica, quando avviene attraverso mezzi che non sono politici, crea tutte le condizioni per procedere con disastri per la prossima generazione, per la generazione successiva. Come è successo da noi dopo il 92. Comunque può finire così, con non dico la Tunisia, saranno le Bahamas, sarà l'esilio, sarà qualcosa di questo tipo. Oggi si è parlato del passaporto. Non mi interessa nulla del destino personale di Berlusconi. Vabbè, qualcosa le interesserà, è sempre un essere umano, no? L'avrà incontrato qualche volta. Ma che c'entra? Non vede che addirittura lo dicono come fosse la cosa più naturale del mondo. Cosa? Che loro non possono permettere una condanna di Berlusconi, perché sennò il partito, il PDL resterebbe acefalo. Quindi sono loro i primi a dire che sono soltanto Berlusconi, perché un essere decapitato crepa. Quindi è pazzesco, loro per primi ammettono di essere Berlusconi. È una situazione pazzesca. Loro stessi dicendo che si deve essere decapitato crepa, ha ragione, un'immagine meravigliosa, vero? Traffico, torniamo subito. Le zanzare di casa mia si nutrono di me. Quando il giorno vola via, si svegliano per me quando tutto sembra poesia. Il ministro Nunzia De Girolamo, sposata con Boccia, Partito Democratico, De Girolamo PDL, dice che la Santanchè è di estrema destra. Che differenza c'è tra lei e la Santanchè? Ma l'età. Solo quella? No, tra me e la Santanchè siamo sicuramente due persone con un carattere forte, ma che esprimono il proprio carattere in maniera assolutamente differente. Forse perché lei viene dalla storia dell'estrema destra e io da un partito liberale moderato come Forza Italia? Si sbronzano di me e festeggiano su Cusci. Cacciari, lei andrebbe a cena fuori con la signora Santanchè? Ma credo che né a me né a lei interesserebbe minimamente andare a cena insieme. Dopodiché può essere anche che capiti, che ne so. No, è come... Che non ha il gusto del pop, professore. Ma guardi che io nella mia vita avevo fatto cene, come dire, di carattere mondano, diplomatico, ne avevo fatte due in tutta la mia esistenza. Due addirittura, che, nemmeno quando era sindaco. Sia un particolare atteggiamento nei confronti della Santanchè. Se vado a cena, vado a cena esclusivamente con persone che veramente mi interessino. Ma non ha un po' nessun motivo di interesse la Santanchè? Ma è una donna. No, per me è proprio nessuno. Ma qualcuno la definisce fascista? Secondo me è eccessivo. Che ne so io. Troppo nobile. Delle sue ideologie. Sì, io direi di non sprecare questi aggettivi. Fascisti, comunisti sono stati i protagonisti della tragedia del Novecento. Qui non siamo alla tragedia, siamo alle farse, è chiaro il concetto? Cioè, non confondiamo le tragedie vere, le grandi tragedie del Novecento. Se uno dice uno fascista, se uno dice no, perché anche secondo me, se uno dice fascista a qualcuno, non è che dice una cosa di poco conto. È impegnativo. È una cosa estremamente impegnativa, come quando da uno del comunista, bisognerebbe sapere appunto che sono parole pesanti, parole importanti, parole piene di storia, parole piene di tragedia, non sono dirsi tu sei del PDL, tu sei del Partito Democratico, che quello puoi dirlo chiunque. No, cioè, qual era l'immagine del decapitato, Parenzo, che non ho capito bene, il decapitato? No, l'immagine meravigliosa di Berlusconi. Cioè che Berlusconi è decapitato però ancora vivo? No, che sono talmente, che i berlusconiani sono talmente berlusconiani che hanno interiorizzato il corpo di Berlusconi, quindi... Cioè rivivono nel corpo morto di Berlusconi, questo è un'immagine straordinaria, per cui se tagli la testa a Berlusconi, chiaramente non è che ricresce come nella mitologia, c'erano alcuni esseri, no? Che gli organi ricrescevano, lì non ricresce nessun organo una volta che è tagliata la testa. Senta, via, professore, ma questi candidati alla segreteria del Partito Democratico che mano a mano s'avanzano, sì. C'è Civati, Cooper, tutte figure minoritarie. Ma di cosa parliamo? Ma Civati, dai. Sono figure minori? Diciamo la vera questione è Renzi, cioè le vere manovre sono per vedere di creare un fronte. Cioè lo vogliono fottere? Lo vogliono fottere come dice lui? No, lo vogliono. Ma è evidente che lo vogliono fottere, è chiaro. Lo vogliono fottere con i soldi di Trucchetti, dice lei. Con Trucchetti, cercando di creare all'interno del Partito Democratico un fronte consistente e credibile contro Renzi. E questo cercano di fare, a partire da D'Alema, che è quello che ancora ora ha più forza e più sale in zucca. D'Alema è quello che ha più sale in zucca, secondo lei, alla fine? Ma è evidente che quello che è più navigato, che quello che ha maggiore esperienza e che quello che ha fatto gli errori più clamorosi nel corso degli ultimi 20 anni, a partire dalla sua incredibile alleanza con Cossiga e Buttiglione. Senta una cosa, ma quando lei vede in televisione, che ne so, personaggi vari che si affollano, tipo la signora Biancofiore, l'ha mai sentita la signora Biancofiore in televisione? L'hai mai vista? Io in televisione la vedo pochissimo, quindi non so. Ogni tanto quando ci va litiga da morire quando ci va, non sopporta. Ho litigato anche con il mio amico Parenzo, si figuri lei. Ma poi abbiamo fatto amichevolmente pace. Senta, ma alcune frasi dei leghisti durante la visita del Papa mi hanno colpito, Boso a Lampedusa, Boso che è contento se va a fondo un barcone. Poi l'altro giorno da noi Salvini ha detto che la Boldrini Salvini e la gang incitano all'immigrazione clandestina, delle cose tremende da parte delle Sono scandalosamente patetici. È uno scandalo quello che dicono, ma sarebbe uno scandalo veramente doloroso se contassero qualcosa. Ma ormai mi creda, non contano più assolutamente nulla. Non conta nulla la Lega ormai. No, non contano nulla, ormai sono stati anche nel nord totalmente abbandonati dalla loro base tradizionale, il popolo delle partite IVA, Confindustriali, tutti hanno capito che ormai... E che fine farà la Lega? Un vuoto a perdere. Cioè dipende anche lei, dipende da Berlusconi. Se Berlusconi sta a galle, riesce ancora ad avere un consenso, a rimorchio ci sono anche loro come alle ultime elezioni, se no non esistono. Ma rimarrà qualcosa comunque di questa cosa mezzo indipendentista? Rimarrà per quanto riguarda quei leghisti che erano parecchi in buona fede, rimarrà l'ennesima memoria di una sconfitta, cioè la sconfitta del federalismo in questo paese. Senti, un'ultima cosa, ma ha sentito che alcune deputate del Partito Democratico vogliono bloccare i manifesti in cui il corpo delle donne secondo loro appare un po' minacciato. Un lavoro praticamente, sono perfettamente d'accordo che è ignobile. Cosa ignobile? L'uso del corpo. Ma la pubblicità, professore. Però credo che se si danno questo fine avranno un compito pressoché infinito, interminabile, perché ormai è talmente dilagante è normale, la pubblicità utilizza il corpo. Però che faccia che faccia letteralmente schifo, è vero. Grazie, a presto. Grazie. A presto, a presto. Giornale salute, Radio salute. 800 24 00 24. Riprendiamo con gli ascoltatori altre cose dopo il giornale radio. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Pure lo spray antizanzara mi son messo il piede, ma lei gira sempre intorno a me. E balli su twist, e balli su twist, la zanzara twist. Oh, ieri l'onorevole Gozzi del Partito Democratico ci ha detto che ha le convulsioni se pensa di stare al governo con Gasparri, sentiamo. Ti ha beccato. Ma lei che è al governo col PDL, con questi che fanno... Non dica così, che me lo ricordano, mi vengono subito le convulsioni se penso che il governo con Gasparri. Lo so, signor Gozzi. E poi gli fa anche schifo stare al governo col PDL, schifo. Scusi, signor Gozzi, ma lei si vergogna un po' di stare col PDL? Sì. No, continua a farmi abbastanza schifo, come è successo ieri pomeriggio, in cui abbiamo rasentato la follia, insomma. Ai, ai, ti ha beccato, ai, ai, ti ha beccato, come ti stendi nel letto, quel noioso insetto passa dall'orecchio. Ma sentiamo un po' quando Pannella dice, voi umani, io bestia. Direi che la maggior parte di voi, anzi quasi tutti, fate parte di quella sottospecie del mondo animale che è quello umano, la sottospecie umana. Io forse c'è una differenza. Tendo a ritenere che io faccio parte di un'altra, ed è quelle delle bestie proprio, quelle della specie animale, della animalità complessiva. E credo che ne do molte prove di sieme, insomma, io così mi sento. Com'è questa cosa? Mi sento della specie animale, di un'animalità complessiva. Un'umanità rispetto all'animale Cruciani, che è un animale maiale, nel senso anche vero del termine. Noi siamo animali nel senso aristotelico, in cui si dice e i miei zon politicon zon, cioè sono un animale politico. Ah beh, mentre certo. Cruciani è un animale basta. Titolo del TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Approvato il decreto che equipara i figli legittimi e naturali. Il premier, spariscono dal codice le distinzioni, mai più bimbi di serie B, è un passo di civiltà. Lo spread torna a correre e tocca quota 300, male anche la borsa. Timori per la stabilità dell'eurozona, dalla crisi politica in Portogallo alle incertezze dell'Italia. Berlusconi parla al termine del vertice PDL e assicura sostegno leale al governo. Sul processo sono sereno, dice, non può che esserci una soluzione. Nel PD cresce l'insofferenza verso le larghe intese e crea polemiche anche una proposta sull'ineleggibilità presentata un mese fa al Senato. A Fabriano, sindaci e operai al corteo dei lavoratori Indesit per la difesa del posto di lavoro e contro la delocalizzazione della produzione. La giovane pakistana, simbolo della lotta contro l'estremismo dei talebani, è intervenuta all'ONU, dove è stata invitata in occasione del suo 16° compleanno. Ed è guarito, grazie alla ricerca italiana, Samuel, il bimbo affetto da una rara malattia genetica, il primo sottoposto a sperimentazione con DNA modificato e staminali. Zanzara! C'è una zanzara tigre! Vabbè, sorvoliamo sulla figura di cacca che abbiamo fatto sull'estradizione delle kazake, che è stata adesso revocata, però quelle sono lì e col cazzo che ce le ridanno. Andiamo in provincia di Varese. Le kazake. Beh. Ma perché liquidi così la storia delle kazake? No, ma una sola riga, no? Senza un solo flash. Non bisogna approfondire troppo. Abbiamo fatto una figura di merda, su. Cioè, perché una cosa è che uno tiene il punto, no? E certo. Dice, vabbè, l'hai estradata e va bene, no? Esatto. Beh, invece adesso abbiamo revocato l'estradizione quando quelle sono là. Ma che cavolo? Cioè, io roba da matti, guarda. Danilo, una roba incredibile, c'è una roba incredibile. Sino Alfano si dovrebbe dimettere domani mattina. Cioè. Ma che domani? Ieri doveva dimettersi, su, ma una cosa incredibile. Danilo dalla provincia di Varese, certo, cioè, la gente non è che non ci dormirà la notte stasera, però comunque, Danilo, provincia di Varese. Buonasera. Avanti. Allora, una provocazione, volevo chiedere a Parenzio, se cacciare... Parenzio, un'altra cosa, non storpi nome come Fede. Mi scusi, se Cacciari non esce con la senza il che... perché è di destra, è fascista, quello che è, ma no. È lecito. Se un leghista non esce col ministro, non mi ricordo il nome, quello di colore, è razzista. Volevo capire qual è la differenza. Ma che c'entra? Ma nessuno... Il suo cervello. Ma nessuno ha mai detto... Subito additato come razzista. Ma nessuno ha mai... Se un leghista non esce... Posso parlare un secondo? Parli. Questo. Sui giornali... I giornali quotidiani, se un leghista non esce con il ministro di colore è razzista, se il signor Cacciari, che è un intellettuale di sinistra, non esce con la Santanchè perché è un fascista, è lecito. Ma è diverso. Quanto ci ha pensato, okay, per dire questa cosa? No, Danilo, scusi un attimo. Danilo, lei quante ore ci ha pensato per dire questa cosa? Voglio solo capire. Perché non questo. Mi risponde? È facile liquidare. Ma voglio capire quanto ci ha pensato. Ma nessuno ha mai chiesto, nessun leghista ha mai detto che non vuole andare a cena, no, con la gang. Le hanno dette di tutti i colori. Perché viene additato come ma questa cosa qui quale? Nessuno l'ha mai detto. No, non voi, ho detto. Ma che nemmeno, i leghisti hanno detto. Ho detto. Va bene. È di Varese questo qua, Danilo. Ma dove siamo? Da Varese. È da Varese, abbiamo detto Varese. Perché dovete essere sempre così sbruffoni solo perché siete lì? Io faccio una domanda, no? Ma poi qual è la domanda? Piacere, ma qual è la domanda? Ma qual è... Ho chiesto al signor Parenzio, voglio sapere la differenza che c'è tra il dire no, cioè rifiutare una cena con una di destra, fascista, chiamatela come vuoi, ed è lecito, però se un leghista si rifiuta di uscire, il primo a dire che è razzista è proprio il signor Parenzio, perché è la sua mentalità. Vabbè. Volevo capire qual è la differenza. Danilo, non mi sembra che... Io non dico che è razzista, ma io, ma guarda, veramente... Se uno dice... Guardi, che lei ogni volta che succedono queste cose dice sempre che sono... Danilo, ma non è... Scusi un attimo. Se io dico non vado a cena con la Chienghe, non è che mi danno del razzista, cioè è diverso. Ah, allora, provi però a chiederlo è un leghista ma dice di no. Quelli della Lega non dicono semplicemente che non vogliono incontrare la Chienghe, ne dicono di peggio, dicono che non rappresenta il nostro paese, che deve tornare in Congo, che vuole eccetera, capito? Questo è un discorso politico. Io vabbè, senta Danilo, puttana. Non ho capito nulla di questa storia, la cena bene, è una stronzata. Gianni da Rieti, buonasera. Ok, non ha capito. No, ma non è che non ho capito, è una domanda assurda, male. La cena. Ma che c'entra la cena? Gianni... era un discorso di notizia. La notizia in Italia è che certe situazioni sono lecite, ma se, è come dire, ma a casa notizia? Mia non voglio extracomunitari, faccio un esempio, però su fuori dei citofoni c'è scritto ai testimoni di Geova non disturbate, però e va bene, cioè voglio capire i testimoni di Geova. Perché, cioè, le due situazioni sono uguali, però vengono trattate in modo diverso. Vabbè. Grazie Gianni da Rieti. Sì, pronto. Ma che devo dire, grazie, che lo devo mandare a fare in culo? Gianni da Rieti. Ma certo, ma... È mezz'ora. Pronto? È stato pure fortunato lei, Gianni, mezz'ora, vada. Ah, sì? Sì. Benissimo. Senti, con chi parlo? Con la zanzara proprio? No, con mio nonno no, parla. Parla con un con mio nonno. No, te volevo dire. Pace all'anima sua, in paradiso, spero. Ti sento piano. Comunque ti volevo chiedere una cosa. Dimmi. Ma questi del PD esistono ancora o ancora più danni di quelli che hanno fatto vogliono seguire a fare? Non ho capito una cosa. Vabbè, Gianni, faccia la persona alfabetizzata. Che vuol dire, scusi, che vuol dire questi del PD ormai... Voglio dire, ma non è una vergogna quello ma che cosa? Stanno facendo? Ma cosa? Che stanno facendo? In vergogna su quello che hanno fatto l'altro giorno con la sospensione. Cioè, ma questi stanno facendo con, non lo so, come si debbono mettere verso Berlusconi? Ah, in alla questo senso. Alla pecorrina? Alla, scusi? Alla pecorrina? Con due R, scusi, come dice? Sì, va con una R. Va con una R. No, perché non si è capito che vogliono questi, capito? Se debbono fare la spartizione dei pani con Berlusconi... Ma basta una R, non due. Pecorina, non pecorrina. Vabbè, fai quello che ti pare, ma lasciami di quello che voglio dire, capito? Ho capito, ma dici pecorrina, la gente non capisce. Per la pecorrina, vai bene, d'accordo, va bene. Va comunque, bene, come ma sta, no, ma come sta il PD? A pecorina sta il PD? Secondo me pure peggio stanno. Cioè, come stanno? Stanno veramente peggio. In questi ginocchio, non hanno nemmeno rispetto della base. Questa è una vergogna. Questi si debbono vergognare. Ma la base sarebbe lei? Come? La base sarebbe lei? Base, io mi reputo un cittadino comune e mi reputo una persona che vive la realtà tutti i giorni, cosa che io non vedo da questi signori e vedo soltanto delle trasmissioni che fanno ridere, che forse siete l'unica voce che date a qualcuno come me, dico a qualcuno come me, che forse non capisce una mazza, forse non però capisce la realtà della vita, cosa che voi almeno date così, la voce a qualcuno. Ci sono trasmissioni che si presentano sempre le stesse persone, sì. Fanno tutti i carini, sono tutti democratici, no, ci prendono per il culo, perché sì. Questo è, se la stanno prendendo con Grillo, sì. Io attenzione sono un non sono un ex iscritto al PD, ma sono un suo elettore. Io ho avuto una discussione proprio con mia moglie prima con sua elezioni. Moglie, perché sua moglie che fa? Chi mia vota? Moglie mi ha detto io voto allora Monti, io gli ho detto ma guarda che forse è un voto perso, io guarda fai una cosa, vota il PD, guarda dico questo è il mio ultimo voto, se questi qui, questo giro non si comportano come si deve, dico li mandiamo a fare in culo. Ma lei parla così con sua moglie? Sì, come così parlo con mia moglie, perché la realtà è questa. Cioè non con è sua moglie, con sua moglie vogliamo... dice... Con sua, moglie di, noi stavolta se questi non fanno non so che cosa, quello che diciamo noi, li mandiamo a fare in culo, giusto? Mandiamo a fare in culo, bravo. No, vabbè, ma voglio capire come avviene la conversazione all'interno di una famiglia italiana di reti. No, dopo quanti anni di matrimonio? Io te l'ho fatta, cioè te l'ho buttata lì. Ma uno discute del problema della nazione. Scusi, no? Signor Pecorrina, ma da quanti anni siete sposati lei e sua moglie? Ma sono 45 anni. Scusate. 45 anni, eh? Tanti anni. Sono pochi, dai, su. Pochi? 45 anni? Non ho capito, sono tanti, io penso. Tu che dici? Ma come ha fatto a resistere per 45 anni? Non lo so, guarda, non lo so. Beh, qualche altro girettino se l'è fatto lei, Gianni? No, perché sono innamorato di mia moglie, capito? Per cui niente, Niente, vabbè. Perché dobbiamo dire, che dobbiamo dire certe cose? Cioè, fammi far serio, anche perché... Allora, è perché no, lo deve dire per forza. Vabbè, ma sarebbe normale... Scusi, Gianni, scusami, sì. Ma dopo 45 anni sarebbe normale, no? Cioè, in questa... No, ma guarda, lui è un elettore tipico, è una brava persona. Ma perché? È un scusa, non ho capito, non è che... Ma che c'entra? No, è una brava persona, un elettore del PD ha ben saldi i valori... Della famiglia? Della famiglia, ma della tradizione, ma anche del rispetto della donna, capito? Io penso che si sta rigirendo dentro la tomba. Chi? Io penso che Berlinguer si sta irrigidendo dentro la tomba. Irrigidendo, cioè non rivoltando, si sta irrigidendo. Vabbè, sta lei già... quello che vuoi. Ma rivoltando, no, irrigidendo. Se irrigidendo sta fermo, rivoltando si agita. E sono due cose diverse. Però che pensa comunque te. Vabbè, signor Pecorrina, ho capito un attimo. Allora abbiamo la borsa? Un attimo. Zanzare, dietro i vetri in montagna, in collina, in campagna. Zanzare, Cari amici della Zanzara, alcune delle voci della settimana, alcune cose che ci hanno colpito in maniera particolare, alcune cose che ci hanno fatto commuovere, alcune cose che ci hanno fatto incazzare. Partiamo ovviamente da Boso ai barconi. Mi dica la verità, Boso, allora lei è contento quando un barcone affonda? Sì. Eccolo. Sì, perché pagano quelle persone che giocano sulla pelle della gente. Ma muoiono delle persone, non gli scafisti, vergognati! Poi ci hanno colpito alcuni dei saggi, i famosi saggi, Parenzo, no? In particolare il signor Francesco D'Onofrio. Il signor Francesco D'Onofrio che dice: ci danno soltanto un rimborso del cazzo. Non siete pagati. Ho capito, professor D'Onofrio. E che devo dire? Più di dirlo, me lo faccia dire. I saggi non prendono stipendio. Però le chiedo. Non prendono nulla, neanche lo stipendio. Va bene, l'ho detto già io. L'ho detto già io, professore. Prendiamo solo un rimborso del cazzo. E che volete? Siete professori universitari, baroni, siete consultati dappertutto, avete fatto consulenza, adesso siete in questo comitato dei 40. Appunto. Parlate anche di rimborsi del cazzo, dai, su. Beh, ma non è lo stesso che ha detto che studiano, lo stesso D'Onofrio, un mito, eh? Che cosa fanno queste persone? Pensiamo, il pensiero è un'attività libera, pensiamo, è legittimo pensare o no? E siccome non siamo retribuiti, possiamo pensare gratuitamente o no? Sì, questa è la domanda, sì, molto semplice. La domanda, però, la controdomanda mia, professor D'Onofrio, è... No, mi scusi, mi faccia... È importante, gente sappia che ci sono persone che non sono pagate per pensare. Ma questo l'abbiamo detto. Pensano. Franco da Milano, buonasera, Franco. Franco? Pronto? Sì, vada. Pronto, buonasera. Ma c'è ancora Gianni? Sì. C'è sto io. Allora, com'è finita con sua moglie? C'è sto io. Pronto? Com'è finita con sua moglie? Benissimo. No, io sai che mi aspetto adesso? Un'altra fregnacciata che fa il PD. Che? Il presidente della Camera. Chi? Il vicepresidente che eleggeranno adesso... Ah, la Santanchè, dice lei. Oddio quanto è carina quella, eh? Secondo te è carina? Ma chi? Lì, che pensi che possa fare PD? Ma non è male la Santanchè, però, eh? Scusa, ma ti dico le ultime due o tre cose che mi sento da dire, visto che mi hai dato questa possibilità. Sì, Gianni, dille. Io dico, ma è possibile farsi dare la lettura da Silvio Berlusconi, da un uomo indagato che mi vergogna quello che succede in questo paese? E questa è una, poi? Che se possa eleggere... una persona come la Santa Cre alla vicepresidente della Camera, ma è possibile? Solo in Italia abbiamo questa situazione, ma non si vergognano, è uno scandalo. Però è una bella donna la Santa Cre, ma no? Chi se ne frega, ma sai quante ce ne stanno le meglio, perché c'ha quattro soldi e se può tirare su se fa le plastichine. Che se fa, ma chi è che si intromette? Donne rurali più belle, più succose, capito? Come sono le donne rurali? Non ho capito, scusami. Come sono le donne rurali? Sono più focose, sono più buone, sono ruspanti, capito? Poi noi siamo sabinesi, capito? Il ratto delle Sabine, capito? Ti dice qualcosa? Sì, più o meno. Allora io dico, ma come cazzarola questo? Sti quattro ignoranti del PD, ancora sta lì, nessuno che va lì a calci nel culo. Questi devono andare tutti via, tutti, senza vergogna, guarda, senza vergogna. La guerra interna si stanno facendo... a discapito del paese, a discapito della gente che non sa come fa arrivare a fine settimana, non a fine mese. Questi non c'hanno il senso di veramente di per cui di alla fine lei, secondo lei eleggeranno la Santanchè vicepresidente della Camera? Ma leggessero quello che gli pare, tanto a noi ci sta bene tutto questo schifo che c'è, perché noi ci sguazziamo, perché siamo un popolo di corrotti, ci sta bene tutto. Ecco perché ancora non c'è una rivoluzione in Italia, perché c'è vabbè, bene adesso tutto. Stiamo esondando, esondando, stiamo esagerando. Ma noi che stiamo esagerando, perché è così, perché siamo una massa di corrotti. Io dico siamo, non detto solo. Ma dov'è sua moglie? Dov'è sua moglie? Mia moglie sta a casa, c'ha pure qualche problema, pure serio, che se lo sa che sa me fa una mazza proprio di quelle. Cioè, se sa che? Se sa che? e che sto qui e sto a parlare con voi, che mi sta così, che lei magari non sta bene, lasciamo stare. Scusa, veramente, sono veramente incazzato, ecco, e corra la sua moglie, no? Vabbè, vada. Sì, ho capito, però io capisco pure le vostre battute, ma qui il problema è serio, cioè qui fra poco non so quello che ma lei che fa di mestiere, perché... scusi Gianni. Prego? Che fa di mestiere lei? Io in questo momento sono un pensionato, chiaro, alle 66 anni, dopo aver lavorato qualche anno, credo che me lo so pure meglio, e anche so pure uno che comunque nella vita ha dato molto, capito? E quindi non tocchiamo sto tasto, perché io so propenso anche venire a trovare e farti vedere di persona che tipo sono. No, per carità. Io una cosa che volevo dire a Parenzo ieri sera, ma quando fate questi tipi di interviste, no? Di quelli della base, ma è andata a scegliere nel mazzo? Perché mi sembrano tutti così carini, tutti che dicono le cosettine in un certo modo, perché hanno paura di sforare, si dice, no? Di andare oltre. Dico, ma... capito? Cioè, deve essere più vero, devi al cittadino che cammina per strada, che sa quello che è la vita, sa quello che spende, sa quello che per arrivare a fine. Ciao Gianni, vai da tua moglie, vai da tua moglie, ciao. Eravamo con Franco da Milano. Franco, vada. Pronto, buonasera. Allora? Allora volevo fare brevemente un sofisma per, diciamo, un per sofisma, parli come mangi. Vabbè, un ragionamento. Allora, dai. Apparentemente paradossale, diciamo. Diciamo, mi sembra Giuliano Ferrara, no? L'elefantino, appunto, che, la cui onestà intellettuale pari solo alla leggiadria, diciamo, ecco, se vogliamo. Vabbè, allora? Che ha fatto la manifestazione, appunto, siamo tutti puttane, no? Dove c'erano un po' tutti quelli del PDL, maschi, femmine, eccetera. Ecco, però io mi ricordo la buonanima di mio padre, mi diceva che quando c'erano ancora le case chiuse, no, ogni 15 giorni cambiavano le chiamiamole le entreneuse, le intrattenitrici, no? E viceversa, noi siamo 20 anni che vediamo sempre gli stessi personaggi, quindi io lancerei un appello, diciamo, per mandare a Porta a Porta, questa gente qua, mandare la Bega, le Scorchina, tutte le oggettine, almeno che ci faccia un ricambio, che così ci facciamo delle risate, ma con dei personaggi nuovi. Perché è sempre le stesse? Cioè, lei non trova? Mi ha fatto venire in mente la signora Scorchina, ogni volta che mi viene in mente la signora Scorchina, come si fa? È una bruttezza pazzesca. La oggettina, la signora Scorchina. Cazzari, quando prima... diceva, ma ormai Berlusconi è finito, cioè, ma io vi ricordo che lui c'ha ancora 9 milioni di voti e la gente lo voterà ancora. Cioè, vabbè, allora? Più di quello che ha fatto, cosa deve fare? Quindi non vabbè, Franco, grazie. Mario, Reggio Calabria. Ciao. Vada, Mario, su. Ciao compagni, Parenzo e Cruciani. Sì, compagno tua sorella. Siete compagni. Voi siete compagni del tipo, io lavoro e tu mangi. Sì, vabbè, andiamo al solo, su Mario, che vuoi allora, dire? Parenzo e Cruciani, volevo sapere da voi cos'è il termine prostituzione. Vabbè, tante cose. Riguardo, diciamo. Ma non faccia domande, non lo so, che mi interessa la terminologia. No, perché io ho notato che lei, tipo, nella trasmissione spesso sminuisce le oggettine. In che senso? Come sminuisce? In che senso? Dice che il modo di donare il proprio corpo e ottenere dei benefici è come che fosse un fenomeno di costume oramai. Ma non perché un fenomeno di costume, così. È una cosa assolutamente normale. Non mi pare una cosa che, non, che, c'è, chiamate, che c'è stato, c'è e ci sarà sempre come fenomeno. Appunto, e sono puttane, così si chiama. Ma che, ho capito, lei le chiami puttane in senso dispregiativo, io le chiamo in un altro modo. Sì, prostitute del proprio corpo, non lo so, ma fanno quello che vogliono. Vendono la propria sessualità, il proprio fisico, come gli pare, ha capito? No, come gli vogliono. Pare, bisogna dare l'esempio. Ma l'esempio di che? Della meritocrazia. Ma che c'entra la meritocrazia? Non è che funziona solo in quel modo. Perché se uno segue, tipo, allora così seguo la strada di fare la puttana ed è una cosa giusta. Senta, il punto è molto semplice. Queste cose sono esistite, esistono ed esisteranno. È logico, però vengono chiamate come devono essere chiamate. Cioè? Puttane, troie. Prostitute. Puttane, troie, ma lei lo dice in senso negativo, lei lo dice in modo negativo, non in modo è vero, dispregiativo. Allora, Cruciani, ascolti, io sono quell'infermiere che vi ho detto tempo fa che non volevo vedere Balotelli col tricolore, ti ricordi, tipo Parenzo? Ma non lo so, non mi ricordo, arrivano tante telefonate qua. Vabbè, non è così fondamentale. E allora? Allora io sono una persona che se si chiama tipo Mondezzaro rimane Mondezzaro, non si chiama operatore ecologico, odio i neologismi che, ah ho capito, lei dice, lei dice se uno vende il proprio corpo anche per ottenere dei favori eccetera eccetera, anche solo per una volta si chiama puttana, però lei dà un'accezione negativa di questa parola, ricalca un po', calca sul termine, ma non è dispregiativa, non voglio dare il senso dispregiativo. Beh, come no, si sente, si sente, dai, su, si sente. Vabbè, si sente. Io credo che ognuno di noi abbia il compito di dare il buon esempio alle, E qual è il questo. E qual è il buon esempio? Il buon esempio è che si deve andare avanti con le proprie forze. Quando io ero in Lombardia, ma nessuno dice il contrario, nessuno dice il contrario. No, però perché, non illudiamoci di eliminare un fenomeno che esiste dalla notte dei secoli, ma certo, che è quello, nessuno lo vuole eliminare. Che è quello normale, che con la seduzione, col corpo, anche offrendo questo corpo si ottengono dei favori, si ottengono delle situazioni, è meno normale che sia così. Ci sono vari tipi di prostituzione, c'è la prostituzione dell'anima, la prostituzione del fisico, è sempre prostituzione. Vabbè, l'abbraccio fortissimo. Non me moleste moschito. Oh, abbiamo con noi un candidato alla segreteria del Partito Democratico, caro Parenzo, Pippo Civati, buonasera, buonasera. Bene, buonasera. Come andiamo? Bene, senta, ho sentito che avete parlato male di me prima. No, è Parenzo che ha detto Civati. Parenzo, io ho detto niente, io ho detto a Cacciari, ci sono tanti candidati e lui ha detto vabbè, ma il nodo principale è Renzi, lui ha detto va Civati, non ha chance. E ammettilo Parenzo, dillo che secondo te non ha chance. L'ho usato, no, chance non lo so, perché questo non lo so. Ma non dillo apertamente. L'ho detto utilizzando una tecnica che si chiama maieutica. Adesso sei un po' paraculo. Perché purtroppo io sono laureato in filosofia. Bravo. Quindi conosco la maieutica. Ha detto Civati, ma di che stiamo parlando questo? Ha detto dai su, ha detto che è un candidato inesistente. Abbi il coraggio di dirlo, di andare fino in fondo. Inesistente no, può prendere la registrazione, verificare, far denuncia. Oddio, no. come si è siete permalosi. Come è permaloso lui? Io non sono permaloso per niente. Scusi un attimo, ma com'è questa mossa del Partito Democratico, di alcuni del Partito Democratico, di cambiare la legge sull'ineleggibilità? Come la giudica lei, signor Civati? Ma io sono un po' scettico, anche se devo dire che la norma è precedente a tutta questa buriana della settimana su Cassazione, sospensione, le cose di cui si è molto parlato, una norma che è stata presentata all'inizio della legislatura da Mucchetti e da altri senatori, è una norma che di fatto riconosce che Berlusconi è ineleggibile o comunque che ha un problema clamoroso con il suo conflitto di interessi, dopodiché la trasforma in una sorta di incompatibilità. Vabbè, non ci capisce niente nessuno. Ma è una follia. Ma no. Non è una follia, però in questa situazione ogni cosa diventa un problema e i nostri elettori hanno la pelle molto sottile, reagiscono immediatamente e non hanno nemmeno tutti i torti. Sì, però i vostri elettori, se non ci vado, anche qui, saranno pure contrari al governo con Berlusconi, però uno poi alla fine quello è, cioè state. Sì, quello è, a patto che si chiarisca anche che cosa siamo lì a fare, perché l'IMU non si vede, l'IVA non si capisce, le tasse sul lavoro rimangono quelle che sono, in compenso c'è una grande discussione sulla giustizia Berlusconi. Insomma. Scusi un attimo, Civati, se Berlusconi viene condannato, lei si augura che Berlusconi venga condannato dalla Cassazione? No, io non mi auguro niente, aspetto che lei ci sia spera, una sentenza. Lei un po' spera, diciamo la verità. No, io non spero proprio niente, non ho nessun problema di questo tipo, penso che siamo di fronte a un passaggio molto delicato, non solo per la storia di questo governo, ma per la storia politica del nostro paese. È questo. Cioè, ma voglio dire, un Berlusconi condannato, no? In maniera definitiva, è compatibile con, a parte che sono loro che dicono che il governo forse cade, ma per quello che la riguarda, è compatibile con la presenza al governo del Partito Democratico, con un partito che ha a capo, che ha alla sua testa un uomo condannato in via definitiva? No, ma per me non era compatibile. Vabbè, ma adesso io questo lo so. A maggior ragione. Cioè, dopo una condanna di Berlusconi definitiva, il Partito Democratico direi che direi che ci troviamo con calma, e finché non abbiamo trovato una posizione rigorosa e seria, cosa che non ci viene benissimo ultimamente, vabbè, non usciamo dalla riunione. Che vi trovate, che non uscite dalla riunione, d'accordo, ma secondo lei come bisogna uscirne? Facendo uscire... Secondo me bisogna uscirne dicendo che c'è bisogno di qualcosa d'altro, che si vada a votare o che si faccia qualcosa di diverso in Parlamento. Ma qualcosa di diverso è possibile o no? Perché ho notato qualche cosa di Grillo, qualche piccolo accenno da Grillo, no, ma insomma il capogruppo, eccetera. È ancora possibile? Secondo me no, ormai, questo governo con 5 Stelle. Lei ci ha puntato per un periodo, però... Ma no, io ho perso. Hanno vinto quelli che volevano il governo con Berlusconi. Ma è possibile ancora? Ma guardi, non lo so, quando cadrà il governo, secondo me ci sarà una serie di reazioni molto interessante, perché non credo che il Parlamento si vorrà sciogliere immediatamente, il Presidente della Repubblica, se dovesse cadere, perché non penso che cadrà, però se dovesse cadere, il Presidente della Repubblica chiederebbe una legge elettorale diversa e dovremmo trovare il modo di farla. Parenzo? Parenzo? No, ma voglio dire... Che fai? Pronto? Mangi? Che stai facendo? Stai mangiando? Che stai facendo? No, ho mangiato una pizzetta del buffet. Vabbè, una pizzetta del buffet, ma che è? Cioè, qua alla perché questo è un posto civile, ci sono gli ospiti che arrivano alla trasmissione. Perché ha dato della fascista la Santanchè l'altro giorno? Scusi. Perché la Santanchè è fascista. Ma no, ma che fascista, ma su. Ma sì, era nella destra radicale. Vabbè, ma che destra? Ma è stata con Sorace per un passaggio. Ma quella è una persona aristocratica. È aristocratica. Ma no, come dire, ma non è quello che mi manca. Ma no, ma voglio dire, non è. No, è di Cuneo, non è aristocratica. Ma no, ma aristocratica nei modi. Esistono anche gli aristocratici fascisti in realtà. Ma lei non mi pare che si sia offesa moltissimo, penso che rivendichi con orgoglio come... No, ma lei lo dice in questo modo, non posso votare uno vicepresidente della Camera perché è fascista. No, io ho detto un'altra cosa, ho detto che c'erano tra i tanti motivi per non votare la Santanchè, c'era anche quello che per me è importante. Però se uno sta con Berlusconi, perché non dovrebbe votare la Santanchè alla vicepresidenza della Camera? Adesso siamo seri. Perché Cruciani, lei che sa le cose... Ma che so. Si ricorderà che noi di solito votiamo il nostro nell'ufficio di presidenza. E loro votano quando bisogna chiedere. Esatto. Quando si sostituisce uno solo, loro hanno bisogno dei nostri voti per farlo passare. E quindi devono anche capire che ci sono delle personalità molto aggressive, peraltro verso anche il governo Letta, cioè lei è molto arrabbiata pure con il governo, no? Dalla mattina alla sera. Vabbè, adesso lei non le vuole approvare le la persona meno indicata, ma infatti io non mi sono candidato alla vicepresidenza della Camera. Sì, però ho capito, fuori da tutti. Ma la vicepresidenza della Camera non è un ruolo che ha a che fare col governo, è un ruolo così di... In realtà sì, perché questo governo pretende dal Parlamento un riflesso condizionatissimo per cui noi possiamo votare solo le cose che vanno bene al governo, quindi sì, purtroppo sì, lei ha ragione in termini teorici, ma questa volta non è vero. Però voglio dire una cosa, una cena, me la immaginerei una bella cena Santanchè Civati tutto così, no? Che si veste in maniera, diciamo così, un po' normale, anche con i jeans ogni tanto, no? Si chiama Santanchè, una bella, un tetto a tetto, lei se lo immagina, Civati, una cena? L'ho incontrata spesso in televisione, rapporto personale non c'entra, il rapporto politico è un'altra cosa. No, ma c'è una cena. Un problema per una cena. Non so quanto durerebbe, dicendola con una battuta. Lei dice, durerebbe poco. Cioè, non ci sono argomenti, dice, non ci sono punti di contatto, è proprio completamente un'altra dimensione. Un altro mondo. Vabbè, ma c'è l'imprenditoria. Ma di che cosa parlerebbe con la Santanchè? L'imprenditoria è un'imprenditrice, cioè perché non deve essere così snob, secondo me, no? No, io non sono snob, infatti ho detto che ho già avuto modo di incontrare... Ma in trasmissione, è normale. Ho un problema personale, ho un problema politico, come spero si possa capire. Sì, sì. Senta, ma lei si immagina che cosa? Una sfida, sarebbe vero, Parenzo, una sfida Civati-Renzi per il Partito Democratico? Sarebbe interessante. Bella tema. O no? Secondo me non ci sarà nulla di tutto questo, ci sarà... che ne so, mi piacerebbe fare una bella sfida, c'è anche Cooperlo in realtà. Guardi, quello che non sa Parenzo, che è polemico inutilmente con me, mi snobba, è che io mi sono candidato da un anno a questa parte e sto costruendo le cose che penso di dire, di organizzare. Cioè lei pensa di battere Renzi se mai si candidasse Renzi, davvero? Io penso di candidarmi a fare il segretario del Partito Democratico. Se poi batterò Renzi sarà un no, d'accordo, ma pensa di poterlo battere, cioè sul serio, oppure uno si candida così per... No, io penso di vincere, certo uno vorrebbe per vincere, mica vorrebbe no, arrivare secondo. D'accordo, però insomma... E quindi l'ho risposto no, già. È più radicato, secondo lei, nell'umore del partito, nel cuore del Partito Democratico? No? No, ma non lo so se sono più radicato, lo decideranno gli elettori, i militanti del Partito Democratico che preferiscono come segretario. C'è anche Gianni Cuperlo che è una personalità molto forte, molto più radicata sia di me che di Renzi nel corpo. Però uno del che si candida per vendicare Rodotà e Prodi, no? Vabbè, basta, Parenzo, non ti devi giustificare, non ce ne frega niente adesso di questa cosa qua. No, dico a scanso di equivoci. Oddio, ma chi se ne frega? Dai, su, hai detto che non ha chance, basta. No, ma lo dico in altro modo. Dico che non riesco a immaginare il segretario, il mio amico Pippo. Amico non credo che tu sei amico. No, dal punto di vista del nome, compagno. Chi avrebbe mai detto che Parenzo sarebbe arrivato alla Rai? Per dire, sono cose che capitano. Sono carine. No, voglio dire, il leader, ma soltanto per una questione di nome, non per una questione di leadership. Ma infatti iniziate anche voi a chiamarmi Giuseppe, così mi do un tono e... Giuseppe Civati. Questo però, era Giuseppe Civati, perché sennò uno dice, però secondo me nell'elettorato, cioè se la corsa alla segreteria del Enrico. Però scusa un attimo, se la segreteria, ma come fai a urlare Pippo? Vabbè, perché Pippo, perché no, da un punto di vista, perché è meraviglioso, dal punto di vista della piazza del popolo piena. Il PD vince le elezioni, Berlusconi non esiste più, esiste un embrione di PDL con delle persone, niente, esiste il PD al governo e la piazza che lo acclama, Pippo, è diverso da Enrico, da Luca, da Giovanni. Vabbè, quello che sia diverso. Abbiamo avuto Pigi, abbiamo avuto Walter, abbiamo avuto tanti soggetti, abbiamo dei nomi. Va bene, torniamo dopo la pubblicità, sempre con Pippo Giuseppe Civati, candidato alla segreteria del Partito Democratico, 800 24 00 24. Beh, in collegamento da casa sua, David, stai fermo, stai attento, senti, Il podio di Saverio Raimondo. Saverio, ciao, buonasera. Come stai? Buonasera. Come stai? Bene, voi come state? Non c'è male, hai sentito? Il PD è diviso su tutto, governo, ieri... Vabbè, questa non è una notizia, questa non è una notizia. Hai ragione, ieri Gozzi ci ha detto... La notizia se un uomo morde il cane, non se il cane morde un uomo. Questo è vero, hai perfettamente ragione su questo. Ieri Gozzi ci ha detto che gli fa schifo stare con il partito di Berlusconi, anche questa non è una notizia. Non è una notizia. Ma che fine fa questo Partito Democratico secondo te, Saverio, scusa? Ma il Partito Democratico ha sulla coscienza una persona che è Zoro, cioè lo hanno mandato in televisione, è un loro uomo e lui ha fatto un programma su di loro, quindi il PD non può sparire, altrimenti Zoro quest'anno su Rai 3 di che parla? Cioè, addirittura 3 appuntamenti alla settimana quest'anno. Cioè, se sparisce dobbiamo trovare un lavoro a Zoro, questo vuoi dire? Ed è per forza, e Zoro è il biografo ufficiale del PD, se sparisce il PD sparisce pure Zoro, è un disastro. L'unico, cioè, diciamo che Zoro ha un'altra possibilità, anzi è la sorpresa alla quale dobbiamo prepararci. Sì. Si candiderà alla segreteria del PD. Beh, questa è una grande notizia, Parenzo, Questa è una grande notizia. Renzi, una volta bruciato Renzi, c'è Zoro. Eh beh, sicuramente più popolare di molti altri. Allora... Certo, è chiaro, si sta costruendo la popolarità così. Renzi è andato ospite di Maria, invece Zoro si è fatto proprio il programma. Scusa, un'altra cosa, ed è la seconda cosa, il PDL è incazzato con la Cassazione. Questo mi sembra accertato, no? Questo abbiamo sentito tutte queste dichiarazioni in settimana. Cosa ti ha fatto pensare questa incazzatura del PDL con la Cassazione? Guarda, l'incazzatura del PDL con la Cassazione è arrivata il giorno dopo la sentenza della Cassazione che condannava l'invettiva Italia paese di merda, no? Sì, che sì. Stava reato. Sì. Quindi ho pensato che il PDL volesse interrompere i lavori delle Camere per protesta contro questa sentenza della Cassazione. E sarebbe stata anche la prima volta che io ero d'accordo col PDL, è giusto protestare contro la sentenza della Cassazione perché l'Italia di merda si possa ancora dire. E invece no, la Cassazione attaccava, cioè il PDL ce l'aveva con la Cassazione per l'ennesima questione giudiziaria di Berlusconi. Quindi la Cassazione avrà pensato, mio Dio che paese di merda, però non l'hanno detto perché altrimenti si sarebbero ritrovati a schierarsi contro se stessi, cioè contro la Cassazione, quindi dalla parte del PDL, generando un cortocircuito politico e giudiziario degno di un paese di merda che l'Italia non è, però lo dico per i signori della Suprema Corte in ascolto. Sei stato molto complicato, però chiaro, i giudici della Cassazione di fronte alle proteste del PDL che cosa hanno detto? Che il paese, che l'Italia è un paese di merda, ma non lo possono dire, non l'hanno potuto dire perché altrimenti si sarebbero dovuti autoaccusare. Vabbè. Esatto, e quindi allora vogliamo fare un appello per gli F-35? Sì, facciamo un appello per gli F-35. Io propongo un crowdfunding, cioè una colletta collettiva. Una colletta, perché? Noi popolo italiano, questi F-35, perché stiamo facendo una figuraccia pazzesca. E voglio dire, siamo reduci da altre figuracce internazionali, no? Con Berlusconi. Berlusconi aveva la fama di comprare i senatori, comprare il sesso, comprare le donne. E adesso noi facciamo la figura di quelli che non comprano più. Cioè abbiamo pagato per anni senatori, giudici, puttane e adesso non paghiamo per questi aerei, non paghiamo più. Ma sì, compriamoli, dai, facciamo una colletta, sennò facciamo la figura degli straccioni. Ma d'altronde voglio dire, c'è questa polemica a che ci servono gli F-35, ma perché chi di noi a casa non è pieno, non ha casa piena di roba inutile che non ci serve? Una volta che li avremo acquistati, poi qualcosa da farci ci troveremo, voglio dire, un cacciabombardiere può sempre tornare utile, voglio dire, Grillo ha detto che il paese si sta armando, no? Il paese ha i fucili in mano, beh, credo che lo Stato abbia bisogno di F-35 per difendersi. Il podio di Saverio Raimondo. Ciao Saverio, a presto. Ciao. Grazie, a presto, buona serata. Bene, allora, siamo sempre... Grazie, buona serata, non l'hai sentito? Il signor Saverio Raimondo, non avevo sentito. Allora, siamo sempre con Pippo Civati, candidato alla segreteria del PD. Voglio chiedere una cosa. Parenzo, ci sei o no? Non ho capito. Ci sono. Ma lei farebbe un governo? Io voglio sapere la sincera verità da Civati. Farebbe un governo con Grillo domani mattina, lei, pur di sciogliere questo matrimonio innaturale con Berlusconi? Me lo devo dire sinceramente. Domani mattina mi metto al tavolo con Grillo a negoziare un altro governo. Lo farebbe? Io personalmente l'avrei già fatto. No, ma domani mattina. Piuttosto che con Berlusconi. Domani mattina lo farei, ma probabilmente non riuscirei a farlo perché il PD sta bene così. Ma chi è proprio quelli che al PD sta bene così? Cioè, sti famosi 101, perché non avete fatto mai un nome di sti famosi 101? Me lo può dire? Mai un nome? Se lei lo conosce, uno dei 101, e mi inizia a dirgli, iniziamo dal primo dei 101. Non si sono mai dichiarati, anche questo la dice lunga sulla serietà di una classe dirigente. Però qualche sospetto c'è. Come vota il Presidente della Repubblica. No, d'accordo, però... Però una lista di sospettati ci sarà. Ma non c'è una lista di sospettati. Tutti quelli che volevano andare, che erano storicamente più disponibili all'accordo con il PDL, che avevano interesse a evitare altre soluzioni, si sono espressi così. Sì, no, ho capito. È una lettura più politica. I nomi, se faccio un nome anche creativamente, mi diranno domani che non è vero, che quello sicuramente ha votato Prodi. No, però siccome questi 101 sono sulla bocca di una serie di persone sin dall'inizio di questa vicenda, poi mai fosse uscito uno e ha detto io so per certo che Tizio, Gaia e Sempronio hanno votato contro Prodi. Prima o poi qualcuno sti nomi li dovrà fare, altrimenti diventa una leggenda e basta, o no? È una leggenda, perché è stato voluto così, lo stesso governo Letta si fonda su questa leggenda. E questo, d'accordo, però non è una leggenda, perché poi concretamente 101 persone hanno votato contro Prodi, no? Non è solo una leggenda, è anche una realtà. Prima o poi qualcuno... C'erano quelli che erano arrabbiati per l'elezione di Marini, che è mancata, c'erano quelli arrabbiati perché non avevamo candidato D'Alema. Ci sono delle categorie dello spirito, diciamo, più che delle persone singole. Nessuno ha dichiarato di non avere votato Prodi, quindi noi non possiamo saperlo, cioè possiamo fare delle ipotesi, però capisce che per me è molto scivoloso, forse no, potreste farlo voi. Ma sì, certo, noi le possiamo fare, però noi, poi voi conoscete così i vostri colleghi. Ma secondo lei ci può essere una soluzione? Forse non li conosciamo così bene, questo è il primo problema. Cioè sono doppi, dice lei, no? Hanno la lingua biforcuta. La lingua biforcuta. Beh, io segnalo che le mie battaglie le faccio alla luce del sole, non convinco Parenzo, spero di convincere qualcun altro. Pure lei è rimasto però colpito da questa cosa. No, no, vabbè, ma lo faccio per creare un po' di... Io gli voglio bene a Parenzo, un po' di fratello, ci conosciamo da una vita. Senta, ma ci può essere una soluzione per Berlusconi al di là della vicenda giudiziaria? Che ne so, la Grazia, oggi Napolitano si è arrabbiato dicendo che è da analfabeti pensare alla Grazia, che ne so, senatore a vita, perché poi alla fine magari una soluzione va presa, no? Cioè, alla fine una soluzione. No, nessuna soluzione, se Berlusconi viene condannato, punto. Punto, nessuna basta. Soluzione politica alle questioni giudiziarie, tra l'altro arrivate al terzo grado di giudizio, capisce che è una cosa abominevole. Per cui se viene condannato, che ne so, al primo, all'inizio di agosto, fuori dal Senato il più presto possibile. Beh, di fatto è così, anche Speranza ieri l'ha confermato, il PD mi sembra che almeno su questa cosa non dovrebbe fare pasticci. Cioè fuori dal Senato subito, quasi prima delle ferie estive, o no? Arrivasse fuori una dal Senato, sì, nei tempi in cui verrà formalizzata la questione, insomma. Penso che ci vorrà 2 settimane, però stiamo parlando di una sentenza che ancora non conosciamo, se poi lo assolvono... No, vabbè, se lo assolvono, certo. Lo assolvono, punto e basta. Assolvono non credo, magari rimandano certo. Un altro appello, eccetera, però stiamo pensando... Se lo assolvono meglio, no? Meglio se lo assolvono, no? Scusi, meglio se lo assolvono. Da un certo punto di vista meglio se lo assolvono, no? Meglio, sì, perché avranno deciso i giudici, l'avranno rinviato in appello perché avranno ritenuto che le 2 sentenze che sono conformi, cioè sono allineate, quella di primo e di secondo grado, non no, vanno bene. No, però in generale non è meglio se lo assolvono? Cioè se assolvono Berlusconi da questa vicenda? Cioè uno dovrebbe sempre augurarsi la soluzione di qualcuno, no? O no? Ah, cioè, no, beh, da questo punto di vista sì. Ripeto, c'è un po' il peso delle prime 2 sentenze che fa pensare altro. Però sì, sono sulla filosofia garantista ci sono fino in fondo. Vabbè, a presto. A voi, ciao. Pubblicità, torniamo subito. Bene, bene, ho voglia di sentire un po' di persone, ho voglia di sentire un po' di popolo. Di popolo, Mino da Brindisi, buonasera Mino. Carissimi, allora peccato che è andato via sì. L'ospite sì. Pippo Civati sì. Che è un fascista altro che la Santa Anchieta, per di più coglione e ipocrita. Capito, nonostante Mino. Questo è meglio di Renzi, che Renzi è uguale a Cacciari, e una lezione di democrazia la rivolgo anche a Beppe Grillo. No, ma scusi, lasci perdere. Mino, prima che chiamo qualcuno per una cura, voglio Mino. Capire, perché fascista, scusi? Innanzitutto perché si è permesso di dare il fascista alla signora Santanchè. E vabbè, d'accordo, poi? Ecco, poi perché lui vuole escludere e mettersi al di sopra della volontà del popolo, che è detto in chiave lettere nel primo rigo della Costituzione, l'Italia è una Repubblica Democratica. Ma che c'entra col popolo, scusi, non ho capito. Il popolo deve scegliere i suoi rappresentanti. Vabbè, d'accordo, ma questo che vuol dire? Il concetto di ineleggibilità è un'aberrazione. Chiunque, perché se qualcuno viene eletto, ho capito, ma ci sono anche d'accordo, ma esistono anche delle regole ogni tanto, no? Questa è una legge è l'unica imperfezione della nostra magnifica Costituzione, dove prevede casi di cioè che non li prevede la Costituzione dice qualora vi fossero per volontà di leggi comuni sì. Qualcuno che debba essere privato di diritti civili, ma rispetto alla volontà popolare, chiamiamola, va. Qual è l'autorità superiore al popolo sì. Che al primo rigo è sovrano a lettera della Costituzione? Si preoccupi del suo sindaco Pisapia, certo. Che ha abbandonato a Milano vabbè, gli anziani in particolare è partito. Stato di difficoltà, togliendogli l'intero minimo vitale da sempre assegnato a 3.300 anziani anziane sì. In grave stato di difficoltà, è partito. Repentinamente gli ha tolto l'intero mese di luglio, quindi una situazione di vita o di morte. Io verrò a manifestare anche davanti sì, a voi. Ma non venga. Ma non venga proprio, non si preoccupi. Allora, chiamo, ma lei ha capito cosa sto dicendo? Ma chiamo i carabinieri. Abbandonati. Ma chiamo i carabinieri io se lei viene. Chiamo sono i carabinieri. Stati abbandonati dalla giunta milanese, sì, 3.300 sì, anziani, togliendoli da un giorno all'altro il minimo vitale, definizione ma lei non provi, comune. Non provi a venire qua che chiamo i carabinieri. Verrò però settimana prossima, garantito. Venga, venga e chiamo i carabinieri subito. Sì, chiamo i carabinieri. Ma a che ora arriva in ufficio? Ma sono affari miei a che ora arriva in ufficio. Io voglio sapere quando lei entra, così ci facciamo una fotografia insieme. Ma io quale fotografia? Chiamo i carabinieri io. Io lo dico con un bel cartello che dice morituri se salutan, signor sindaco Pisapia. Ma chi se ne frega dei suoi cartelli? Senza bandiere, qualcuno ci sarà in piazza della Scala che ti chiederà. Ma scusi, ma poi lei chiede... ma poi lei non chiama da Brindisi? Non chiama da Brindisi? Voce, io sono di Brindisi. Ah. Con voce chiara di spiegare il tuo spartito comunale, perché se il provvedimento vabbè, questo è matto non cambierà... Ma questo ha perso ha perso la cotella. Dove sei che vengo a trovarci stasera stessa? Ma non ci provi nemmeno. Chiamo le do io il numero di telefono del signor Cruciani se vuole, così vi fate una bella chiacchierata stasera insieme. Sì, guarda, ci stavo pensando, guarda, ci stavo pensando. La inviti fuori a cena, fate una bella chiacchiera col signor Mino. Perché se il provvedimento non cambierà per tanti cittadini. Ma quale provvedimento? Io posso minimo vitale assegnato da anni, è vita o morte, glielo dice, ve lo ridiamo ad agosto, ma saranno tutti morti. Immagini, lo sapete. Allora, se il provvedimento non cambierà per ma quale provvedimento? Porte soldi, se non si ravvede bisogna chiedere le dimissioni, se giustificazioni come tema non è almeno di Maiorino per tanti cittadini. Ma chi è Maiorino? Ma chi è Maiorino? Ma come chiama l'assessore del Comune di Milano? Non si capisce come abbia potuto togliere il mese di luglio la settimana dopo dire che lo ridiamo ad agosto, definito minimo vitale dallo stesso comune. Mino, ma lei è da ricovero, si fa, vada al San Carlo, vada qui al San Raffaele, si faccia ricoverare. Mino, si faccia ricoverare, che lei se la sta passando male, non ha una famiglia che l'accudisce, un qualcuno che lo prende in cura, un qualcuno che lo mette a letto un po' con una carezza sul viso e comincia a inserire delle flebo, dei tranquillanti, non c'è nessuno che sta con lei, con chi sta? Me la farà lei settimana prossima quando vengo lì, però lei è disinformato su quello ma che ma lei non viene qui, perché io chiamo la polizia se lei viene qui. Vengo, garantito, guardi. Ma io dove? No, io andrò in piazza della Scala, è da lei. No, ma io chiamo Parenzo per far parlare. Ma hai ragione, c'è un radioascoltatore, esprime il desiderio di incontrarti, tu lo devi incontrare. Sì, da Parenzo ci vado stasera stessa se mi dice dove i documenti. Mi metto nell'abito grigio, giacca e camicia e cravatta e vado lì. Allora, ben sai, caro sindaco, che senta, non ci rompe i coglioni con Pisapia, però traffico, dai. Antonio da Milano, buonasera Antonio. Oh, ciao Cruciani, sì. Volevo parlare gentilmente con Parenzo per esprimergli tutto il mio disappunto per il modo con cui si esprime e si rivolge ai suoi ascoltatori. Perché è assurdo. Ma come si rivolge? Come si rivolge? Ogni qualvolta uno che sono qui al parcheggio dei taxi, gli amici tassisti che ascoltano la radio. Antonio, allora che vuole? No, niente, volevo veramente dire che è un povero pirla, come dicono a Milano, e mi spiace dirlo, ma è così. È un pirla perché è uno che non riesce a ascoltare gli altri e ogni cosa devo ascoltare uno, le trontate, ma secondo te la devo ascoltare le stupidaggini io? Cioè io ma devo ascoltare delle cose stupide che vengono dette? David, si sente male, mettiti la bocca meglio su questo diavolo di telefono, su, non lo mettere attaccato che non si sente niente. Antonio, allora? Sì, no, sto dicendo che è assurdo che ogni qualvolta un ascoltatore chiama che difende dalle opinioni di Parenzo debba essere sempre e ogni volta attaccato. Ma certo che deve essere attaccato, è normale. È normale, non è normale. gli fa comodo, cazzo, mette giù i tappeti rossi. Quando invece le cose non gli fanno comodo, allora ambulanze, sono tutti coglioni sono. Ma com'è la faccenda? Scusi Antonio, no, quando tutti. Uno non è d'accordo. No, ma non tutti. Quando uno non è d'accordo. Non sono tutti coglioni, alcuni sono molto coglioni e quindi per qualcuno gli va mandata il trattamento ambulanza, trattamento zanzara, trattamento. Era ambulanza, si è passata menata, cambiate un attimino la pappa, si è passata storia. Vabbè, dai, comunque. Ma che aveva da dire lei? Che aveva da dire lei, Antonio? Che fa della vita? Io cosa faccio? Io faccio l'imprenditore, ho una mia piccola azienda e ho il mio tran tran. Però ascolto Parenzo, cazzo, tutte le volte non si può fare altro che incazzarsi. E perché? Sono sicuro che il mio pensiero è condiviso da tanti altri. Sicuro. È l'imprenditore che ha il suo tran tran, ha detto quotidiano. Sì, il tran tran quotidiano, sì, il tran tran. Vabbè. Un po'. Che vuol dire imprenditore vuol in che dire cosa? Che suo tram, cosa vuol dire che ha il suo tram? Uno, già uno, vedi adesso io non mi devo arrabbiare, non devo urlare perché sennò mi chiamano dalla radio che non devo urlare, io non urlo. Però se uno chiama e dice sono imprenditore e io ho il mio tram tranco di, e uno cosa devi dire a una roba così? Secondo te? Sì, vabbè, mamma mia, guarda, è penoso. Ma cos'è il tram tram? Ma cosa mi interessa del tram tram? Il ricovero ci vuole veramente per Parenzo. Mi spiace, è penoso. Ma cos'è il tram tram quotidiano? Scusate, è un piacere, ma... Antonio, il tram tram quotidiano cos'è? Antonio? Vabbè, Alessandro D'Arieti, su. Sì, ciao a tutti. Tanto per dire che non siamo tutti analfabeti come il mio concittadino. Solo questo volevo dire, ci ha fatto fare una figura abbastanza pessima. Ho capito, non è che nessuno ha identificato Rieti con l'intervento prima dell'ascoltatore da Rieti. No, così un po' rurali, un po'. Allora, non c'è niente di male essere rurali. Arcoci ne a dirlo, tutto qua. Vabbè, Alberto da Ferrara, buonasera. Buonasera, grazie di avermi richiamato. Dica, che voce c'ha? Una voce da oltretomba? Che è? Ah, sarà il telefono, non lo so, la mia voce è normale. Vabbè, allora, c'è una voce Le ambulanze sono tutte fuori, no? Sì, per adesso sì. Adesso ne recuperiamo qualcuna, però. La prepari, la tengo pronta. No, telefonavo perché volevo, penso tutti qua dove lavoro, dove giriamo, nei bar, quant'altro, tutti non abbiamo fatto altro oggi di parlare di questa grande iniziativa che ha fatto il governo per risolvere la questione dei figli conosciuti, illegittimi e quant'altro. Era veramente quello che stavamo tutti aspettando. Quindi anche voi secondo me dovete cercare di... Ma perché? Che male c'è su questa cosa che ha fatto il governo di equiparare i figli nati fuori o dentro il matrimonio? Era un'emergenza. Vabbè, non è un'emergenza, ma una di quelle cose che si può fare tranquillamente. Sì, che c'entra? Ma certo. Ma perché lei è contrario? No, io sono assolutamente favorevole. È che veramente ci viene da ridere. Guardi, qui veramente aspettavamo proprio solo questo. Era una delle prime necessità da fare. Poi che andava fatta, per l'amor del cielo, la mettiamo... Tra tutte le cose che veniva aver già fatto 100 anni fa. Ma è più facile fare questo piuttosto che mettersi d'accordo sull'IMU, su questo non c'è dubbio. È meglio parlare di quello che andiamo d'accordo che di quello che c'è da fare, questo è fuori di dubbio, ma veramente grazie a tutti, volevo ringraziare il governo a nome di tutti noi che qui al bar, in giro, al lavoro, tutti i giorni non facciamo che parlare d'altro di questo, quindi hanno sentito proprio un filo. Cioè lei dice, sulle cose inutili prendono i provvedimenti subito. Hanno un filo diretto col popolo, perché è proprio un filo in tutti, destra, sinistra, tutti hanno Sì, ma uno non si deve aspettare niente dal governo, uno deve uscire dai propri guai, se lei ha dei guai, rimboccandosi le maniche, lei fa parte del piangisteo, lei è un piangina, di quelli che piangono sempre, invece bisogna uscire da questa mentalità, se uno vuole risolvere le cose si rimbocchi le maniche, trovi lavoro, si impegni nella società, faccia quello che deve fare, senza piangere e aspettarsi qualcosa dal governo, tutti si aspettano che il governo faccia qualcosa, non è che il governo crea automaticamente posti di lavoro, sono uno di quelli che sono un 57enne che si è rifatto un lavoro, che se ne è rifatto degli altri, non ho bisogno di nessuno, segnalavo veramente la distanza, perché questi non se ne accorgono, lì da voi, e voglio dire, sono loro, parlano di maiali, parlano di gente che chiede di andare a processo, quando arriva l'ora del processo non ci vuole andare, cioè, parliamo di cose che sono fuori dalla realtà, lontani dalla realtà, hanno veramente un feeling diretto. Andrea da Torino, buonasera. Buonasera. Buonasera, volevo che spiegasse agli italiani chi ha maggior livello di Alzheimer fra Frusciani e Culenzo. È un dubbio che molte persone si pongono. Com'è che ha detto Frusciani? Com'è? Frusciani e Culenzo. Frusciani e Culenzo. Cosa intende? Questa potrebbe essere anche divertente se non ci avesse pensato da un mese. Sì, non è uno storpiare il nome. Frusciani viene da Froscio, non lei dimmi da Froscio, quindi Frusciani. Sì. Culenzo viene da culo, ricchioni come li chiamano al nord, quindi sì. Culenzo. Perché lei ha qualcosa contro gli omosessuali? Assolutamente, io guarda, non do coglio coglio, proprio avrei il massimo, anzi a dire la verità mi spiace non poter assistere quando tu e l'altro Culenzo vi inchiappettate, perché sarebbe una cosa che mi farebbe molto piacere, cosa che probabilmente farete tre volte al giorno, visto come vi comportate. Ha qualcosa però in contrario? Ma lei ha qualcosa in contrario? Se fosse vero, lei ha qualcosa in contrario? No, assolutamente. E allora assolutamente. Che vuole? Non volevo parlare di Froscio, sto parlando di Alzheimer. Volevo che spiegasse agli italiani sai che cosa mi dispiace. Prego. Sai cosa mi dispiace? Dimmi. Mi dispiace per i tuoi parenti. Cioè, quando i tuoi parenti stanno ascoltando in questo momento alla radio, no? Dico, no, ma quello lì ha telefonato veramente, che figura di merda che ci fa fare, no. Ma, a me dispiace per loro, per i tuoi parenti, guarda. Ma cosa c'entrano i parenti? Ma mica sto dicendo che a me dispiace per tuo figlio, che c'è un padre così, o per tua moglie, che c'è un coglione accanto. Stiamo parlando di noi, non divagare. Stai zitto con quella voce di cacca che c'hai. Non divagare, stavamo parlando di noi. Perché ti rimbalzo? Cioè, ma perché la gente si deve vergognare di te e delle cose che dici? Perché in Italia uno che dice quello che pensa, io uno che dice quello ma che pensa. Ma perché ti devi umiliare? Ma chi ti ha fatto il mondo? Felico, ti assisti, tieniti impegnato la bocca in altro modo e smettila di parlare. Sto ma parlando con che faccia torni a casa stasera? Ma con che faccia torni a casa stasera? Ma togliti dalle balle. Io non ho capito che cosa pensa lei, però, perché oltre a dire culi, froci, stai zitto, tappati la bocca in un altro modo, che ha detto adesso? In tre minuti va bene, ma che ha detto? Ho fatto una domanda, volevo sapere. Ma qual è la domanda? Perché state a rompere coglioni a quel tizio del nord della Lega che ha detto se uno non vuole uscire con la ministra Chienchè è un razzista? Mentre ma nessuno l'ha mai detto. Ma nessuno perché l'ha mai detto. E c'hai l'Alzheimer, perché l'ho sentita io la trasmissione. E sei talmente frocio che c'hai tutta questa pruderia che hai pure chiesto al politico della Lega, che peraltro io non condivido come idee, ma per correttezza di informazione, ti innamoreresti di una donna di colore? Sì, l'ho chiesto. Che cazzo di domande sono? Quante ore ci hai pensato per fare questa domanda? Voi che poi solo perché avete il microfono in mano e siete professionisti dell'informazione, non gliel'avete fatta la stessa domanda al politico? Quante ore ci avete studiato per fare questa domanda di merda? Quindi come cazzo vi permettete di dire a un ascoltatore quante ore ci hai pensato? Che battuta di merda è? La situazione è grave, è molto grave. Per fare la domanda ti innamoreresti di una negra? Frusciani, quante ore c'è? Secondo me la situazione è molto grave. Guardi, la risposta gliela do. Dai una risposta. Sì, la risposta gliela do subito, caro Andrea, ma io sono molto preoccupato per la sua fidanzata, per sua moglie, per qualcuno. Comunque lasciamo perdere questa mia preoccupazione. Sono molto preoccupato. Dai una risposta. Sì, te do una risposta. Ma che uomo di che? Ma uomo di cosa? Quale uomo? Risposta da uomo. Dove siamo? Sì, uomo. Dai una risposta. Sì, uomo. E che è il duello rusticano? Che è? Visto che avete ma detto quale par condicio? Ma non dica stronzate, lei non sa nemmeno che cos'è la par condicio. Non sa nemmeno cos'è. Lei non sa nemmeno di che sta parlando. Permetti di fare battute delle balle. Io faccio le battute che voglio, Perché sei un fascista evidentemente. Allora hanno ragione gli ascoltatori quando vi dicono sei fascista. No, la situazione è grave. Allora, dunque. Tu non puoi fare le battute. Per un senso di pietà, No, io non devo essere equo. Sarà lei equo. A me la parola equo mi fa orrore, alla parola equo mi fa orrore. Perché non sei un equo. No, non sono affatto equo. Tu sei gay, quindi pienamente d'accordo. Sì, ma può darsi anche che sono gay. Allora? E allora? Ma lascia stare con un uomo gay. Ma lei è malato di mente. Ma lei è malato. Non sono malato. Lei si rende conto di essere malato o no? Io sono molto preoccupato. Ma lei, quando torna a casa stasera, picchia la sua fidanzata e picchia sua moglie. Ma perché dovrei picchiare? Io do il suo nome. Sì, perché lei è talmente esagitato che per sfogarsi alla fine stasera. Stasera picchia. Lei picchia sua moglie. Io devo. Diamo questo telefono alla polizia, vi prego. Devo dare questo telefono alla polizia. Perché c'è pericolo per chi è a casa con lei stasera. C'è un pericolo molto grave perché lei arriverà incazzato nero con le mani che prudono. Ma mia moglie è 20 volte più uomo di voi due mentre sì, insieme più uomo, perché sì. sa dare delle risposte. Senta, se fenomeno, parla, io la risposta gliela do subito, la risposta gliela do, vabbè, dopo la borsa gliela do, dopo la borsa. Well now, little mosquito, there must be well, some reason for you that I just can't see. Well, there is. Well, you're right, son. You see, God put me here just the same as he put you. So I'm nature's mosquito. And that means I'm gonna go bite, a bite, a bite. Ancora un po' di Mandarà, dai, il nostro amico Mandarà. Ormai ho quasi un moto di affetto, sono quasi affezionato a Mandarà, a Salvo Mandarà, questo grillino che riprende sempre con le telecamere, che sta lì accanto a Grillo, che voleva andare via dall'Italia e che poi se la prende con noi perché lo pigliamo in giro, ma noi siamo una trasmissione un po' così, un po' particolare, caro Mandarà, non si preoccupi, la prendiamo in giro perché lei ci dà occasione per prenderla in giro. Per esempio, sentiamo quello che ha prodotto oggi. Parenzo, tu lo so che sei contrario a questa cosa, che non vorresti mandare in onda Mandarà, lo so, però... Per esempio i poteri forti, sentiamo, sentiamo. Questa continua complicità della politica con i poteri forti, quindi con Goldman Sachs, tanto per citarne uno, con Bilderberg, con la Trilaterale, con Aspen e con Aspen Institute, eccetera. Quindi praticamente noi stiamo pagando le conseguenze del fatto che i partiti tutti insieme, amorevolmente, in combutta, praticamente prendono parte a queste riunioni a livello mondiale, dove viene deciso il modo migliore per stuprarci. Cioè, noi saremo anche dei cazzoni, no, David? Saremo anche, dei cialtroni. Criticarci beh, per il linguaggio. Ma insomma, questo tizio qua, che si picca anche di fare dei ragionamenti seri, che parla di queste cose qui, a me questo mi fa incazzare, capito? Perché poi dice, no, perché giornalismo serio... Ma vi rendete conto di cosa sta parlando questo tizio qua, dei poteri forti che stuprano l'Italia? Ma di cosa stiamo parlando? Di cosa parliamo? Mandarà. Dai, su. Mandarà. Oh, quest'altro da manicomio qui, Andrea, c'è ancora? Sì, sono ancora, ma ecco. Voglio dire, voi fate sfoggio di ignoranza, ma in un modo incredibile. Sì, è arrivato. Una cosa fantastica, è arrivato. L'avete capito? Prego. È arrivato, su, è arrivato il professore qua. No, avanti, professore, avanti, avanti, professore, avanti, su. No. Fino adesso sono stato calmo con lei. Sono stato calmo con lei. Avanti, professore, su. Che cosa allora, da dire? Se tu vuoi fare un pochettino di lezioni, vai dal tuo collega Sebastiano sì. Barisoli. Ma non me ne frega un cazzo di queste robe qui. Lo so, e vai a vedere qual è il problema di Goldman Sachs, il quale accennato. Sì, vabbè, allora adesso la pensi pure come Mandarà, su Andrea, la pensi pure come Mandarà, dai. Ma non si tratta di pensare, allora posso dirti qual è il discorso? Ma non lo sai, ma non sai niente tu, non sai niente. Vabbè, lo sai tu, allora lasciami parlare e ti dico se so qualcosa. Avanti, su. Adesso stai zitto perché sei veramente un buffone. Vai. Allora, lo sai il problema della Grecia, che gli hanno nascosto sì. il debito pubblico e hanno sì, fatto quello. C'entra questo? Chi l'ha fatto? Comunque Andrea, lasciamo perdere questo, scusami, lasciamo perdere. Non lo hanno lasciamo fatto perdere. Di Goldman Sachs, sì, sì. Zitto, non l'hanno fatto ma Goldman stai zitto, Sachs. Lo dice a tuo nonno. Aspetta un attimo, Andrea. Andrea, sì, Papa Andreu, mio padre. Nel libro paga della Goldman Sachs. Sì, sì, il grande lo complotto della Goldman sai. Sachs, allora, il grande complotto, dai. Allora l'ignorante chi è? Mandarà o siete voi che fate sfottò senza sapere manco di che sì. state parlando? Vai. Ascolta sì. Sebastiano Barisoni, che è una sì. persona seria. Sì, benissimo. Allora noi lo ascoltiamo e lo veneriamo anche no. e lo veneriamo. Ciao. Scusa Andrea, ciao, tu odi gli omosessuali e odi gli omosessuali, questo è sicuro. Ma li amo gli omosessuali, sì, amo gli omosessuali, ma chi ha detto che li ho tu giri le carte in tavola senza sapere nulla, io li amo gli sì, omosessuali. Sì, infatti si è sentito, si è sentito. Sei tu che non hai il coraggio di dirlo e vuoi mettere in bocca agli altri quello ma che cosa dire voglio tu. Mettere in bocca a chi? A chi? Perché mi hai detto io odio gli omosessuali. Ma certo, è chiaro, mai. Gay, vinculate tu e Parenzo, questo, di questo ma hai parlato. Ma sono fatti di vita normale, che voi fate, questo è semplicemente un riferire fatti sì. che Ma perché lei è stato a letto con noi? Lei è stato a letto con noi? No, purtroppo non ho avuto questo piacere. Sarei stato molto contento di poter assistere al vostro spettacolo. Guarda, più che vedere Lilli Caraggio o Pamela Anderson, guarda, Beh, vedo che se ne intende. Mi avrebbe dato maggiore gioia. Sei contento se vede ti dico che, questo? Vede che se ne intende, vedo che se ne intende. Che me ne intendo, certo che me ne intendo, ma tu capisci di che parlo, non è che stai dicendo che cosa, lo sai anche tu, quindi te ne intendi anche tu. Allora, invece di perdere tempo dietro Lilli Caraggio o la ma com'era che la storia dei due pesi e due misure? Di che cosa, Andrea? Scusa, due pesi e due misure, perché allora, che ancora dopo 20 minuti non l'ho capita bene ancora, dopo 20 minuti, scusami, professore. Se vuoi sapere, la domanda è perché avete chiesto all'ascoltatore quante ore ci pensi per fare una domanda del genere, quando la stessa domanda l'avete fatta voi? Adesso te lo passo. Quante ore ci avete pensato voi? Poco, io ci ho pensato un minuto per fare una domanda del genere. Quindi ti vengono proprio così? Mi vengono, le cazzate mi vengono così, sì. Okay. Davide, mi sono tolto parla col professore Andrea, dai. Ma puoi passare un secondo? Sì, te lo passo, vai. Ma chi è professore? Tu, è Andrea da Torino, professore, non me lo chiamo. Ma io professore. Parenzo, parla col fenomeno voi, qui. Ma con voi chiunque, professore. Io la sto trattenendo perché ho paura per sua moglie che stasera va a casa e gli dà due sgarazzoni in faccia. Ma perché dovrei dare due sgarazzoni? Perché in lei è nervoso, e si può sfogare ma su sua moglie, glielo dico io. Ma faccio semplicemente, siccome voi togliete la parola di bocca. Ma che togliamo? Sei un quarto d'ora che sta parlando, che non dica stupidaggini, su, David, dai, togliamo la parola. David, prego, parla con Andrea. Ah, stai tirando l'acqua? Stai tirando il coso? David? Ecco. Hai tirato lo sciacquone? E adesso devi abbracciare la tazza del cesso e di cantare Non sono degno di te, che sarebbe un successone in diretta. Non solo, ho tirato su questa volta la... Ridiculezza. La differenza sua? Ma uno dico che ha scritto due libri sui funghi, uno contro le banche, è stato preso nella televisione dove l'editore era il suocero. Poi dico, ma manco ringrazia Dio che passa sotto radio. Lei non sa di cosa parla. Lei non sa. Chissà di che parla. Ha scritto Dererum Novarum, Parenzo. Ha scritto Delizia delle Dere. Ma dov'è la televisione del suocero? Ma questa è buona, Dererum Novarum è buona. Dice, state degli ignoranti agli altri. Ma che ha fatto Parenzo? Cioè, nella vita c'è in Wikipedia, perché cosa lo scriveranno, Parenzo? Diciamo, certo, ma voglio dire, poi passate Parenzo, quindi quello che mi devi dire, che devo tornare a casa, che c'ho paura. Va, dai. Aspetta, che sta tirando il cesso, l'acqua del cesso. No, finisce di cantare Non sono degno di te, dai. No, è lei che sta scivolando via come l'acqua del cesso. È caduto dentro l'ascoltatore. Mamma mia, è caduto l'ascoltatore dentro... Oh, caspita, è caduto, come si chiama questo? Ma che sei battute di merda che Andrea, fai? Andrea è caduto dentro, mamma mia. Andrea? Sì? Oh, mamma, è caduto. Aspetta. Allora? Oh, adesso bisogna spingerlo più sotto. Aspetta che uso lo scovolino per spingerlo più sotto. Perché è caduto così dentro? Ma queste battute gratuite, ma dico, ma sincera, ma non vi vergognate a fare queste battute gratuite? Ma che cazzo? Ma lo sa, Andrea, lo sa che io è 20 minuti che lei sta al telefono. Io non ho ancora capito il motivo per cui ha chiamato. Esatto. Non l'ho capito, è da 20 minuti, non ho capito il motivo. Ma che motivo c'è di chiamare? Ma c'è un motivo per chiamare a 20 appunto. La gente saluta e li mandate a fanculo. La gente dice, voglio dire una digressione, ma parla come mangi. La gente dice una gaffa. E li prendete per ignoranti, ma che ascoltatori volete? Uno viene fa. Andrea, ma io non ho capito, ma lei perché cosa ha chiamato? Scusi, perché cosa ha chiamato? Perché è disturbato, è un disturbato mentale. Vabbè, quello è chiaro, lei è un disturbato. Vabbè, quello lo accertiamo, allora, lei è disturbato. Allora, mettiamo da parte questa certezza, lei è un disturbato mentale, vabbè, d'accordo. Ma perché sono disturbato mentale? Ma lei è disturbato, ha dei disturbi, ma quello è normale, guarda, anch'io ce li ho, anch'io ho dei disturbi. Allora, io faccio una richiesta a tutti gli ascoltatori. Ma anch'io ho disturbi. Di mettere ai voti se sono un disturbato. Ma anch'io sono disturbato. Disturbato, non si preoccupi, lei è disturbato, non si preoccupa, anche lei è disturbato. Probabilmente, però vorrei mettere ai voti un referendum, che in Italia se ne fanno tanti, prossimo ascoltatori, gentilmente. Allora Andrea, per quale motivo ha chiamato? Per dire queste cose, per dire gay, cusiani, per cosa ha chiamato? Perché non tollero la vostra arroganza e la vostra... Ma su che? Su cosa? Se l'abbiamo lasciata parlare in libertà per 10 minuti ha detto le peggio cose, ma qual è l'arroganza? Che l'avrei dovuta mandare. Io mi permetto. Quante ore ci hai pensato per fare una domanda del genere? Sì, ma io. Ma è, fatto un'osservazione, ma è molto minimo. Semplice. Ma è il minimo questo qua. È il minimo che facciamo. È anche poco. Cioè, ma l'ascoltatore. È il minimo, anche poco. Che vi posso dire? Buona trasmissione. Vi saluto. Io continuo la messa perché adesso di venerdì sera ho già sprecato abbastanza tempo con voi. Stia attento a casa. Non sfogarsi a casa, però. No, quello non. Sicuramente. Stia attento. Perché... comunque telefonare. Si è un saluto a tutti, si è sfogato, a Gianni, un saluto a Culenzo e mi raccomando agli ascoltatori, votate. Traffico. Ciao Fruciani, ciao traffico. Giovanni da Milano, buonasera. Pronto, buonasera dottor Cruciani, mi sente abbastanza bene, spero. Sì, spero. Io sono 75 anni, ho qualche acciacco, ma per fortuna i sordi non ne mancano. Allora, innanzitutto, mi deve, prima di parlare della tragedia di Milano, voglio chiedere scusa a Parenzo. Stia tranquillo, lei stia calmo, è partito male, Gianni, è partito male. Io volevo chiudere chiede scusa a Parenzo, per una volta che è stato chiamato Parenzo, mi inquieta. Ma io volevo dire che era per dire macchietta, un amore vezzeggiativo, e per farmi perdonare voglio suggerire, lui se lo merita, il nuovo nome per la trasmissione della prossima stagione, la Zanzara e la Pulce, oppure la Zanzara. Vabbè, questo sta cercando di fare l'imitazione di qualcuno ma non ci riesce, su Giovanni, la che Zanzara capita? E la Pulce o la Zanzara e il Pidocchio. Vabbè, allora io mi trovo a Milano perché c'è una situazione tragica, allora io gli posso provare a dire una cosa in milanese e do il mio numero di telefono perché mi assumo tutte le responsabilità. Il mio numero è 388 127 8481, lo ripeto, 388 127 8481. E allora? In milanese gli dico e gli faccio la traduzione simultanea: senza i bandier qua il vinghe sarà in piazza. Vabbè. Della Scala che te chiederà con parol char de spiegà e il tos partì comunal. Senza bandiere qualcuno ci sarà in piazza della Scala che ti chiederà con voce chiara di spiegare purtroppo, il tuo spartito comunale. Purtroppo perché non abbiamo macchine disponibili. Purtroppo non abbiamo macchine. Minga cambierà per tanti milanesi. Vabbè, non abbiamo macchine disponibili. Non abbiamo macchine disponibili. Io ma a Milano c'è una degenerazione pazzesca. È una cosa incredibile, guarda, una cosa incredibile. La notte. Ah, Pasquale da Catanzaro, avanti. Buonasera, sì. Diciamo che le telefonate che mi hanno preceduto un po' mi hanno preoccupato, cioè io ero preoccupato per il Partito Democratico. Cioè lei è normale? Lei è normale o no? Me lo auguro, però mettiamo subito. Ero preoccupato per il PD, ma ho visto che la situazione generale non è migliore. Ascolti, io sono iscritto al Partito Democratico, ho telefonato sperando di poter intercettare Civati. In realtà una cosa che volevo dire è che praticamente se parliamo del Partito Democratico senza collegarlo alla realtà italiana serve a ben poco, gliene frega niente a nessuno. Vabbè, adesso lei non mi sia troppo filosofico però, Pasquale. No, filosofico. In realtà io ho chiamato perché c'è un problema di fondo nel PD che poi si riverbera in tutta la nazione. La nazione ha bisogno di un cambiamento veramente di fondo, perché stiamo continuando a mettere delle toppe su dei pantaloni stracciati. Sì, vabbè. C'è bisogno di un cambiamento. Beh, vabbè, il PD d'accordo. In realtà ha una classe dirigente di cambiamento, sì. Te lo assicuro, da iscritto, perché da Civati a Barca, passando ma perché per adesso, scusi Pasquale, però va bene, passare. Ma lei vuole fare il comizietto qua ai 20:50 di venerdì. No, volevo solo perché le dico la il comizietto sul Partito Democratico, abbia pazienza. Magari forse è meglio quando uno inizia con le parolacce. No, ma non devi iniziare con le parolacce per forza, però il Partito Democratico ha una grande classe dirigente, ci sono tanti. Andiamo su, dai. Allora, stavo cercando di dire un'altra cosa. Ho capito, ma... A fianco alla classe dirigente attuale... Qui non siamo alla sezione di Catanzaro. ...che cerca la conservazione della specie, quelli che hanno fatto i votati 101, quelli che hanno fatto lo schifo che hanno fatto, c'è anche una classe dirigente per bene che sta cercando di lavorare. Vabbè. Allora le dico... Ma perché lei deve fare... Perché lei deve fare lo stesso discorso che farebbe nella sezione del Partito Democratico di Catanzaro? Perché? Sì, vabbè, allora... capisco che la trasmissione ha cambiato forma. Ma non è cambiato forma, lei cosa che vuole dire? Ma che vuole dire? Che vuole dire sul Partito Democratico? Ma non è un concetto lunghissimo. Sto cercando di dire sì, che praticamente sì, il Civati di turno che si candida sì, può anche andar bene, ma dovrebbe capire che è il momento che Civati, Renzi, Barca, la Serracchiani e sì, Soru sì, si mettano d'accordo sì, visto che sono una classe dirigente politica di qualità eh? E tirino via dai piedi la classe dirigente vecchia fatta bene dai D'Alema in company bene, perché l'Italia ne ha bisogno, non il partito. Benissimo, bene? Lei ha detto una cosa originale che avrebbe detto nella sezione del Partito Democratico di Catanzaro. Va benissimo, è perfetto, però ha detto via largo, perché, largo ai giovani, via ai vecchi, cioè via ai vecchi dirigenti. Questo io ho riassunto, sarebbe non stato molto. Non i vecchi dirigenti, perché Barca non ha 15 anni, fate attenzione. No, i vecchi dirigenti, quelli che hanno avuto. Ma perché? Ma perché a noi? Ma perché alle 20:52 di venerdì diverso dal togliamo, mettiamo l'IMU, aumentiamo, riduciamo l'IVA, vabbè, qualcuno che ha qualche idea un po' più originale sull'Italia che sta andando al tracollo completo, ma comunque, ripeto, forse era, ha funzionato più chi ha sproloquiato 20 minuti. Ma non è quello, Pasquale, che, cioè, è un comizietto da sezione del Partito Democratico. No, non è un comizietto, è un messaggio che speravo di dare a Civati, no, ma volevo capire quanto fosse possibile capire che ci sono profili diversi, sì, perché Civati può fare il segretario del partito, Renzi sì, deve fare il presidente del consiglio e non può fare il segretario del partito, si mettessero d'accordo e la finissero a fare vabbè il valzer di chi vuole fare tutto, ok? Volevo grazie dire. Daniele, grazie. Provincia di Ancona. Pronto? Fatto stesso che uno deve dare un messaggio a Civati qui, cioè qui alla Zanzara, devo dare un messaggio a Civati, gli scriva una mail, perché non gli ha scritto una mail, un messaggio, una mail? Ma perché di venerdì? Devo dare un messaggio a Civati, io lo abbraccio fortissimamente questa ascoltata da Catanzaro che ha avuto la pazienza di seguirci, ma insomma gli manda, no, ma non capisco gli mandi un messaggio. Di venerdì 12 luglio, quando la gente va al mare, è stanca, è finita la settimana, alle 20:52 deve dare un messaggio a Civati. E vabbè, ognuno ha le sue fissazioni. Daniele, provincia di Ancona, su. Pronto? Sì, dica. Sono Cusciani, salve. Desideravo chiedere a Civati. Ancora, questo Civati. No, ma è simpatico poi. Molto. Allora? Devo sapere se andrebbe a cena con un nazista, perché ho visto che con i fascisti ha qualcosa da ridire. Ma io ci andrei subito. O se è meglio essere comunisti. Ma che questo che vuol dire pure? No, ma questo è un po' meno spostato che questo. Mamma finale mia. Tutti mamma spostati. Ah, è uno spostato. Ma l'arroganza cosa significa per lei? Permette alle persone di parlare. Ha colpito molto questa cosa qui di che non andrebbe a cena con lei. No, l'arroganza. Lei che consente alle persone di parlare. Ma di io la sto facendo parlare, è già tanto. È già si tanto. Così. Un altro spostato lo dice a sua sorella. Ma lei è già tanto, capito? Perché lei ha detto, ma dica sì, ma quello nazista. Va, che cos'è questa storia del nazista? Non ho capito. Ma la non ho capito. Non andrebbe a pranzo o a cena con la signora Santachè perché è fascista, o la signora Santachè perché ex fascista non potrebbe diventare vicepresidente della Camera. Glielo girerò a Civati questo quesito. Ci sentiamo lunedì 18:30, ciao. Voi ci dovete far bellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, lei ha ragione, quando ritorno a casa, lo dica a voce alta. Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24. La passione si sente. Risparmiare si può. Stazioni di servizio Costantin. Dove fermarti? Ti conviene. Vi ha presentato La Zanzara.